Attenzione, 23, cambio. Aspettale! Dovrebbe! Quanto è grossa a casa davanti? Ehi, sempre così mi raggio io. No, non è vero, l'altra volta ce l'avevi più fine. Buonasera. Ehi, deve essere... perché c'ho un po' di manicola anche, quello lì magari. Tu, buttacela via. Cazzo, mi sarei accorciato a tirare un po' più, mi ha fatto male veramente. Poi sono venuti i miei figli, che caldo papà, no almeno mi accende l'aria condizionata che mi sta passando la tosse. E un pochino dai, non si può stare, vabbè. Devo accendere l'aria condizionata l'indomani. Non voglio vizio. Ora tosse, tutta la notte tossendo, da crepare. Gli occhi che mi bruciavano, mal di gola. E tu, la prossima volta, il virù, rimanetevi a casa vostra. Perché sennò ce l'avrete anche voi il mal di gola. Loro non li fa nulla, loro c'hanno, sono giovani, capito? La più grande c'ha 32 anni e l'altra ne ha 22. Ma, cazzo, io ho la mia età e quindi tutti gli mali mi... Brutto, Cambia così è feo. Lo sai cos'è? Che non li può subire la mentenda di peccato. C'è nel condizionatore, non l'accini. Però fa male. Meglio metterlo in deumidificatore, così almeno si ritira l'umido e basta. Infatti, devi mettere un umidificatore. Rinfresca e allo stesso tempo ti tira fuori l'umido. Ma loro vogliono l'aria condizionata perché è più fresca, capito? Eruma a te insieme, lo stesso. No, che è più forte, l'aria condizionata tiene il gigito più forte. Sarà più forte, ma è più sana però. Quello sì, quello è più sana, sì. Ma io sono del parere che l'aria condizionata va più in macchina ne attacco. Io ce l'ho in macchina ma non ne attacco. Perché fa male. Ma è meglio la misura attacca. Devo dire, carta, devo soffrire a te. Mi devo andare con un raffreddore. Poi la macchina è diretta, mi la metto di fronte. No, io non la metto mai di fronte, la metto che se ne va in alto, se ne va. Ma per quanto sia l'abitacolo è piccolo, c'è poco da fare. Vabbè. Che bello la sera buona di Adanasia, giusto, che a notte va a fare il dolore, che fai? Buone, buone. Vabbè, mi rodi, che non sai male. No, ti prende i polmoni, ti piglia i polmoni. Io ho sentito molta gente che ha la polmonite e entrambi i polmoni. Quello che gli ho detto anch'io. Non la vuole intendi, ha detto non era fotte nulla. Vabbè. Che non vede che sai mai non vi vengo io a visitarti. La guida non lo vuoi, ma però meglio di no, meglio che non si senta male. C'è molta gente perché quest'anno prende i polmoni. E ti va a venire anche il coronavirus. Io sempre cura addosso, Tu tu attacca dell'aria condizionata, ma c'è caldo. Tu cucina a fare con l'aria condizionata da Nancy. Non lo vedo, non ti addosso. Prende la tosse secca, io infatti sto facendo la cura, sto prendendo le gocce, ogni 6 ore devo prendere le gocce. Perché io ci rompio le possibilità come d'altronde anche tu, perché gli amici, l'unica pastiglia della medicina che non possono prendere sono gli sciroppi. Io non posso pigliare nulla, perché già dopo fai la pastiglia del cuore che prendo, non posso prendere altre pastiglie. Non puoi prendere gli antidolorifici. Neanche quelli posso prendere. Te l'ho chiesto alla dottoressa, ma ha detto neanche i dolorifici, nulla da fare. Gli antidolorifici ti annullano l'effetto della medicina che prendi per il cuore. Quindi è per quello che non si prendono, perché te l'annullano. È come se non avessi preso il pastiglio. Infatti, molte volte per il braccio resisto, anche dolorifico non ne prendo. A me mi ha detto che non ne posso prendere, poi dice se c'è proprio un dolore lo prenda, non è che... Però è meglio che non ne pigli, perché annulla l'effetto che fa della pastiglia del cuore. Infatti, è per quello che non me ne dà. Ma l'altra volta mi ha dato una specie voce di del coso di gocce come fa nel naso, cosa non mi ha fatto nulla. Allora le in farmacia le gocce per la voce, ma per la tosse secca. Sono delle gocce che devi mettere 27 gocce ogni 6 ore. 27 gocce. No, a me mi aveva ordinato queste gocce qua, due volte al giorno, per il naso, per non scendermi le gocce dal naso. Cosa mi ha tolto, però secondo me ha da Ciappi, ti farà romaggio di sempre. Non si sa come comportarsi, guarda. Infatti, io mi chiedo se è la giovinile di Bellalli, ma non ne prendo altro, era meglio quell'altro per il raffreddore. E a volte se mi dice che uno fa lo bene all'altro no. Per tenerti questa cosa qua, quello più forte non me lo può dare, ma la due più leggeri. Interessante sarebbe da voi, immagino sia possibile da voi luce. Infatti, non più di un altro, e andò dritto così. E stavolta mi sono stato a torcicolo, non lo diciamo in un gusto, dopo sentivo come cappuccino. Non c'è che ci avevi la glicemia alta, no? No, perché l'ho misurata a 125. Insomma, non è alta. No, ci avevi inizio di torcicollo. E magari anche, come si chiama, l'altro di cervicale. Io ogni tanto me la faccio scricciolare il collo. E mi passa. No, ho bisogno di vedere voci che mi rimbeso. Tutto lo mangiano così. E dipende dalla posizione qui di curici che dormi, dai. E che te lo che devo fare lavoro al collo? Ah? Chi è che te lo fa stritolare il collo? Io stesso. Se muovo da una parte e dall'altra, sì. Mi passa. Ah sì, devi mettere il braccio destro in alto verso la testa e girare il collo verso sinistra e anche con l'altra fare così, viceversa. Compresa Raya, va. quello lì infatti. E non era vero, ma io pensavo che andasse da qualche terapeuta, roba del genere. No, c'ho un piccolo massaggiatore, che un bel po' gli appoggio mettendo lo scricciolarlo. Ce n'è uno bravo a Sassari che ci vuole passare il ruolo. Perché che sei droghina? Che sei devi dare un godo? Lo so, ci fanno quelle mosse strane che penso che facciano anche male. Perché ti metti i gomiti nelle vertebre. E dato che ti sei bosannato alla vertebra e te la fa spicciolare. ma hanno dei metodi che hanno... Sono sicuri, hanno delle posizioni perfette. E quell'altro che appoggia i gomiti, piano piano e poi ti dà il colpo di grazia, e te lo fa scricciolare. E io non gioco, li ho visti anche su internet, ci sono. No, se me lo rimanevano d'orore. Vabbè. Se si tratta di pochi minuti, è meglio che te lo faccia le nostre tipi di lui, non è così. Però sempre bisogna vedere. Io adesso ti devo lasciare perché devo andare a portare giù il cane e poi devo uscire, ma devo andare al mare. Mi vado a fare il mare di notte. Via da te. Ok, va. Buona passeggiata. Ci risentiamo alle prossime. Ciao già. Ciao.